Il venerabile Nicola Donofrio nasce, cari amici, a Villa Magna, nella diocesi di Chieti, siamo in Abruzzo. Nasce il 24 marzo 1943. Il papà si chiama Giovanni, è un contadino, un uomo profondamente religioso e grande lavoratore dei campi. Anche la mamma Virginia è una donna forte, delicata, conosciuta in paese per la profonda pietà e il suo spirito cristiano. Possiamo dire che è una famiglia che conduce una vita semplice, semplice sì, ma illuminata da una grazia ed una carità esemplari. Non mancava mai, per esempio, il Santo Rosario ogni sera. E oltre a Nicola, questi sposi avranno la gioia di avere anche un altro figlio, a cui daranno nome Tommaso. E sia Giovanni che Virginia si impegneranno seriamente per donare ai loro piccoli il proprio sentimento religioso e la serietà di lavorare onestamente. E questi insegnamenti germoglieranno subito in Nicola, producendo grande forza di carattere, accompagnato però da una delicatezza e da una gentilezza d'animo che daranno al nostro futuro venerabile una grande serenità di spirito. E Nicolino, come viene chiamato in famiglia, è allora un bellissimo bambino, sereno, sorridente, magro e alto per la sua età, con due profondi e grandi occhi neri che guardano tutti con bontà e molta vivacità. E così cresce in un clima familiare sereno, laborioso, soprattutto, dicevamo, ricco di pietà cristiana. Frequenta le scuole elementari del paese, di Villa Magna, distinguendosi tra i suoi coetanei per diligenza, per bontà, soprattutto per generosità verso tutti gli altri, come dirà anche la sua maestra e anche diversi suoi compagni di gioco. A 8 anni, il giorno della festa del Corpus Domini, siamo nell'8 giugno del 1950, riceve la prima comunione. 3 anni dopo, nell'ottobre del 53, riceve anche la cresima. È attento in modo particolare a quelli che sono gli insegnamenti cristiani e segue soprattutto la mamma, è molto affine infatti alla mamma Virginia, e non trascura nel tempo libero il servizio di chierichetto all'altare della chiesa parrocchiale, che raggiunge anche con sacrifici in pieno inverno, benché casa sua fosse distante diversi chilometri dalla parrocchia. Era posta infatti sul confine con la vicina Bucchianico. Bucchianico, sappiamo, è la terra natale del grande San Camillo dell'Elis. Ebbene, pensate, proprio da un padre camilliano, padre Santino, il piccolo viene notato. Padre Santino, che è anche suo concittadino, spesso infatti visita la chiesa di Santa Maria Maggiore e si rende conto della serietà e del trasporto religioso con cui Nicola, che ha 12 anni, frequenta i sacramenti. È qualcosa che lo colpisce nel profondo, capisce che c'è la vera stoffa di un sacerdote, di un vero apostolo nel futuro di Gesù. E allora cosa fa? Piano piano prega molto prima diciamo, di fargli questo invito. Alla fine si decide, un giorno lo affronta e gli chiede di entrare nel seminario camilliano a Roma. Nicola è sorpreso, ma anche gioioso di questo invito, perché sentiva in cuor suo questo desiderio di essere totalmente di Gesù. Sente una chiamata, già allora, anche se molto piccolo, e cosa fa? Con grande gioia torna a casa contentissimo e ovviamente manifesta ai genitori la sua decisione, pensando che i genitori fossero oltremodo contenti di questa cosa. Ma voi pensate, fu una grande sorpresa amara per lui perché entrambi i genitori, sia Virginia che Giovanni, si oppongono. Si oppongono perché la mamma lo vuole vicino e vuole che, sì che entri in seminario, ma in quello diocesano della vicina città di Chieti. Mentre il papà si oppone per un'altra cosa, perché si vede sottrarre delle promettenti e forti braccia per i campi che coltiva. Essendo infatti Nicola il primogenito, è già pronto per sostenere alcuni lavori aiutando il papà a mandare avanti la piccola azienda agricola familiare. Thank you. ma non bastava che mamma e papà fossero, diciamo, contrari a questa scelta. Anche le altre due zie nubili, benestanti, erano le sorelle del papà che vivono in famiglia, si oppongono. E si oppongono a tal punto che arrivano addirittura a minacciare Nicola di diseredarlo qualora intraprenda la via del seminario. Insomma, è una situazione veramente paradossale. Lui, da ragazzino, vista l'avversità della famiglia, anche se con grandissima sofferenza, abbandona almeno per il momento questo proposito e si rassegna a restare a casa. Ma anche qui la sua vita è di una semplicità genuina, è anche dotata di grande spiritualità. Infatti è un ragazzo docile, gentile come sempre, e obbediente ai genitori, ma prega, prega molto Gesù perché se questa è la sua volontà, dice, trovi lui il modo di legarlo definitivamente ad una consacrazione al Signore, nonostante ci fosse questa opposizione così forte da parte di tutta la famiglia, non ce n'era uno che era dalla sua parte. E così, cari amici, avviene. E questo lo dice proprio la mamma, Virginia, che dice così. Una sera, dopo aver fatto il bagno, mentre si era messo già a letto, lo sentì gridare: «Mamma, preghiamo! Mamma, preghiamo!» Accorsi in camera da letto e lo trovai inginocchiato sul letto a mani giunte. Quella sera non mi volle dire di più, ma al mattino seguente, dopo nuove mie insistenze, mi rispose: «Ho visto una cosa brutta». «E non mi ha detto niente», dice la mamma, «non mi ha detto niente di più». Mamma disse, diciamo il rosario, questa era l'invocazione. Credo, dice Virginia, che forse era il demonio che voleva ostacolare la sua vocazione sacerdotale. E la cosa non ci stupisce, visto quello che poi ci sarà dopo. Insomma, l'opposizione della famiglia dura comunque circa un anno, tempo che lui, il nostro Nicola, fa però fruttificare, vivendo in preghiera soprattutto e studiando. Determinato comunque a voler entrare in seminario, si impegna ancora di più. Nella preghiera in modo particolare si affida alla Madonna che lui ama moltissimo, come vedremo, e a lei chiede aiuto, è certo che il Signore lo aiuterà. E finalmente questa grazia grande arriva, ottiene dai genitori il permesso finalmente di entrare nello studentato camilliano di Roma. Innanzitutto entra come studente all'interno della comunità. E pensate, il 3 ottobre 1955. Festa di Santa Teresa del Bambin Gesù, che diventerà poi, come vedremo, la sua guida spirituale. Allora, sappiamo che oggi la festa di Santa Teresina è il 1° di ottobre, ma originariamente, nel rito romano, la data era quella del 3 ottobre. Intanto, nell'affollato seminario, come allora erano a quei tempi questi centri di preparazione per il sacerdozio, il giovanissimo Nicola non sfugge all'osservazione del maestro dei novizi, che subito anche questo padre coglie i segni di una vocazione santa. Per lui invece, per Nicola, la gioia di essere qui in questa comunità, in seminario, è grande, è enorme e ci resta 2 anni. Sono 2 anni meravigliosi, ma alla fine questa gioia viene offuscata da una notizia che ancora una volta lo sorprende e lo fa soffrire. Infatti il papà ci ripensa e vuole riportarlo a casa. Ma questa volta lui non si perde d'animo. Cosa fa? Scrive una lettera decisa, forte alla famiglia, comunicando comunque la sua decisa volontà di proseguire per il sacerdozio nell'ordine di San Camillo a costo di qualsiasi sacrificio. E non lo dice così, porta anche delle motivazioni chiare e pensiamo che quella che fece breccia nel cuore dei genitori, a sostegno appunto di questa sua decisione, fu quello che lui scrisse riguardo a San Giovanni Bosco. San Giovanni Bosco, voi sapete, disse questa frase: «La più bella benedizione per una famiglia è quella di avere un figlio sacerdote». E così proprio la situazione finalmente si cheta, si calma e il 6 ottobre del 1960, Nicola, 17 anni, indossa finalmente l'abito dei religiosi di San Camillo, iniziando così il vero noviziato. E al termine del corso di esercizi spirituali, tappa fondamentale della sua vita, scrisse: Gesù, se un giorno dovrò buttare come tanti l'abito santo, fa che io muoia prima di riceverlo per la prima volta. Non ho paura di morire ora, sono in grazia tua. Che soave cosa poterti venire a vedere insieme alla tua e mia mamma, Maria. E tutto l'anno di noviziato lo trascorre, cari amici, riportando sul diario propositi e piccole conquiste, momenti di grande lotta, come vedremo, e anche di aridità. E proprio dai suoi scritti si evidenzia chiara la volontà decisa di continuare per questa strada che lui vede come una chiamata vera, la chiamata divina, affidandosi all'aiuto del cielo che sintetizza in questa espressione. Il demonio si vince stando vicino a Gesù e a Maria, coi sacramenti e con la preghiera. E non si ferma qui, cari amici, il suo amore è talmente grande per Gesù e la sua volontà è talmente forte che scrive proprio al termine del primo giorno, pensate, degli esercizi spirituali, lui scrive anche queste frasi. La volontà deve essere tenace, piena, eroica nell'ascesa, il suo desiderio era diventare sacerdote, e scrive, una volontà che non cambi direzione secondo il vento, ma resti fedele ai principi di Cristo crocifisso, che non si perda in tante fatuità della terra, ma si mantenga sempre vivida e forte nel sostenere e nel far progredire la nostra corsa verso Dio. La nostra ascesa, scrive Nicola, la nostra ascesa inoltre richiede una volontà eroica, perché il fine è difficile. Miriamo all'imitazione di un Cristo crocifisso, il quale non ci presenta che la croce da abbracciare quotidianamente. Eroica inoltre perché la nostra ascesa non è a fasi, ma continua e impegnativa, un'ascesa che dovrebbe consumarci interamente, lui dice consumarci interamente d'amore, ma per poter giungere a tanto indispensabili sono la confessione, lui dice, e la direzione spirituale. E proprio da qui entra nel pieno proprio dello spirito camigliano, spirito che brilla soprattutto in occasione dell'assistenza prestata da Nicola D'Onofrio, da questo venerabile, da questo ragazzo, ad un anziano confratello. L'anziano confratello era padre del greco, che allora era gravemente ammalato per un tumore alla gola. E lui lo assiste con una cura, con una carità e con una cura amorevole, e anche i confratelli ricordano ancora le parole che lui diceva a questo padre, in occasione era il venerdì santo di quell'anno, e Nicola disse al padre del greco, «Padre, unisca i suoi dolori a quelli di Gesù agonizzante. Oggi è venerdì santo, giorno bello per lei che soffre insieme a Gesù». Era talmente grande questa gioia nell'abbracciare la croce per il Signore e con il Signore, anche per la salvezza di tante anime, che per lui era un dono di Gesù avere questa possibilità. E arriviamo, cari amici, al 7 ottobre 1961, 7 ottobre la festa della Beata Vergine del Rosario. Questo giorno meraviglioso lui emette per 3 anni i voti di povertà, castità, obbedienza e anche di carità verso gli ammalati, anche se contagiosi. Questo momento arriva però dopo un intenso anno di preparazione che i padri capitolari giudicheranno da parte di Nicola ottimo, quindi era ben preparato ad iniziare questo nuovo percorso piuttosto impegnativo. E ha inizio proprio in questo giorno il periodo di formazione come religioso professo camigliano. E lui è un ragazzo sereno e felice, generoso sempre con tutti, osservante della vita comune, presente e assiduo alla preghiera, diligente negli studi, con umiltà e con grande semplicità. Era schivo, voleva sempre essere, diciamo, non voleva essere notato, desiderava invece essere sempre servitore, aiutare gli altri, essere d'aiuto. E i suoi superiori, il padre provinciale, padre Andrea, il maestro dei chierici, padre Renato, sono allora le sue guide e i testimoni del suo progredire lento ma costante verso la vetta del Monte Santo di Dio. E lui continua in questa preghiera santa e immacolata e nutre in cuor suo e cresce in modo a dismisura, possiamo dire, un amore ardente per Gesù Eucaristia, un amore che travalica l'umano è che lui riceve quotidianamente nella Santa Messa, riceve la Santa Comunione e lo adora e visita spesso durante il giorno la Santissima Eucaristia nella chiesa del seminario oppure all'Università Gregoriana. Ma non gli basta questo, vuole iscriversi anche alla Guardia d'Onore al Sacro Cuore di Gesù e sceglie dalle 8 alle 9 per fare l'ora di riparazione. E proprio accanto a Gesù crocifisso, Nicola ha nutrito un affettuoso e specialissimo rapporto con la madre, con Maria Immacolata. Nei suoi scritti, cari amici, sul letto di morte ha espressioni tenere e dolci, soprattutto in un periodo di grande prova interiore. E il demonio, devo dire, che lo provava parecchio. Era arido all'interno, era un po' la notte oscura che attraversiamo, diciamo, nel poco o nel tanto, ognuno di noi, ma soprattutto i santi. E lui scrive queste due parole, dice: sono stanco, direi sfiduciato quasi. La vita di noviziato mi pesa, perché? Si chiede. È il nemico mortale dell'anima mia che strapazza, è il Signore che mi purifica. Quando finirà questo luogo di esilio? Voglio morire presto, se a Dio piace, per volare tra le braccia della mia mamma, parlava della Madonna naturalmente. Voglio andare a riposarmi in paradiso. Sì, mammina dolce. Ecco che pian piano il sereno torna nel mio animo e posso mirare più lontano. È questa la volontà di Dio. Ed io che voglio, dice, fare il Signore? No, no, no, ma tutto per voi, Gesù e Maria. E oltre l'amore, possiamo dire al di là di ogni infinito per Gesù e per la Madonna, nutre anche un'accesa devozione per Santa Teresina del Bambin Gesù. E fa sua proprio la spiritualità della piccola via che Santa Teresina ci ha insegnato. E un altro grande amore che sente nel cuore proprio per il suo padre fondatore, San Camillo, e lui studia la figura di San Camillo a fondo, facendo suo, essendo una cosa sola con lo spirito camilliano, anzi desiderando, sognando quasi intense giornate di lavoro al servizio dei malati, quando un domani diventerà sacerdote. E non ha timore di manifestare a chiunque il suo ardore grande, meraviglioso per la vocazione camilliana. Anzi, cari amici, al contrario, si sente onorato di questa sua appartenenza. E lui continua questo bellissimo cammino che sente totalmente suo, applicandosi seriamente agli impegni scolastici, nutrendo stima e affetto verso gli insegnanti ed essendone anche ricambiato. E proprio nel breve periodo di vita come studente dimostra un grande amore, un attaccamento forte alla sua congregazione, dicendosi felice di restare nella casa religiosa, anzi non concedendosi facilmente delle uscite, e dedicando invece il suo cuore, anche il suo ingegno e tutto il suo tempo alle varie urgenze, alle necessità della sua comunità. Ma inizia proprio in quel periodo, cari amici, il periodo della grande prova, la prova che poi lo porterà alla donazione totale, alla morte. Siamo infatti verso la fine del 1962, lui ha 19 anni, e iniziano a manifestarsi i primi sintomi del male. Purtroppo è un tumore ai genitali a cui seguirà una metastasi ai polmoni. Obbediente è l'inizio, quindi tutti sperano, ecco, è obbediente naturalmente alle decisioni dei superiori e anche dei medici, e fin da subito, fin dal primo momento, si sottopone a tutte le direttive e alle cure che gli vengono date. È inizio, dicevamo, un doloroso calvario che lui accetterà per essere veramente sempre più vicino al suo amato Gesù. E l'anno dopo, siamo al 30 luglio del 63, viene operato presso il reparto di urologia all'ospedale San Camillo a Roma. L'esame istologico della parte asportata purtroppo è drammatico. È un teratosarcoma, una specie tumorale maligna particolarmente aggressiva, soprattutto in un soggetto così giovane, appena 20 anni. Non gli viene nascosto la gravità del male, anche se non gli viene detta tutta questa gravità, ma tutti, compreso il suo padre provinciale, confidano nell'intervento divino per una soluzione positiva della malattia, sebbene di parere esattamente opposto fossero i medici che avvisano il provinciale che non c'è nessuna possibilità di guarigione, quindi gli restava poco tempo. La degenza post-operatoria è presso la casa dei cappellani dello stesso ospedale a San Camillo ed è una degenza difficile, dolorosa, ma vede lui sempre paziente, sorridente e attento a non disturbare anzi i confratelli che erano sempre molto premurosi verso di lui, gli volevano molto bene. E arriviamo il 19 agosto, viene spostato da San Camillo e portato presso il Policlinico Umberto I, sempre a Roma, per la cobaltoterapia nella zona subtoracica, con la segreta speranza del medico curante, questo medico se ci credeva, di circoscrivere il male. E poi dal 24 dello stesso mese di agosto continua a livello ambulatoriale questa terapia presso l'ospedale. Ma il suo comportamento è comunque sempre di grande esempio, ma per tutti, è paziente nel sopportare i dolori che a volte sono atroci, disponibile, dicevamo, e questo è un grande aiuto proprio nella preghiera e nella sua continua presenza davanti a Gesù Eucaristia, nell'amore che aveva per la Madonna, è sempre presente e disponibile a seguire la volontà di Dio. Infatti il suo motto era: Signore, sia fatta la tua volontà. Coraggioso nel sostenere una malattia di per sé pesantissima, anche per l'abito che indossa, a volte poteva provocare anche un certo imbarazzo, no? Proprio per il tumore che aveva colpito anche nelle parti basse. Lui ha coscienza, diciamo, abbastanza piena di avere un male di una certa gravità, ma confida comunque anche in quei giorni nell'aiuto del Signore. Così, con grande pazienza, si sottopone a tutte le cure con la speranza di uscirne, di guarire, e questo lo possiamo dedurre anche da una nota che abbiamo trovato tra le sue carte. In effetti, alla ripresa dell'anno accademico in autunno, i superiori, che sono molto fiduciosi, lo iscrivono comunque al primo anno di filosofia alla Università Gregoriana, nonostante sia già ormai profondamente minato dal tumore nel corpo. Anche in questo luogo, ai professori e ai confratelli, si manifesta con la sua diligenza, la sua serenità e la sua bontà d'animo. È incredibile questa serenità che si porta avanti, che è solo frutto di una grazia meravigliosa all'interno di questo cuore palpitante d'amore per Gesù. Non poteva essere diversamente. E proprio la grandezza del nostro venerabile appare, dicevamo, soprattutto in questo momento. Tutti sanno della gravità di questo male, ma proprio il suo atteggiamento, il suo comportamento, allegro, dolce, sempre pronto a non tirarsi mai indietro, anche per una faticosa partita di pallone a cui i giovani confratelli lo invitano nelle ore di svago. E proprio il suo bel viso sereno, tranquillo, non fa presagire nulla di quella gravità e della condizione che sta vivendo. Anche alla suora, preposta alla lavanderia, a cui lui impartisce lezioni di italiano perché la suora è straniera, e che lo vede sempre attento nel prendersi cura del proprio abito talare, che amava moltissimo, la suora non nasconde di essere, lui non nasconde alla suora che è a conoscenza di quello che è il suo stato di salute, ma come ella stessa dirà, è così sereno e sorridente in viso, così rabbioso negli occhi, che sicuramente il Signore farà per lui un miracolo. Intanto, ai primi di gennaio del 1964, viene eseguita un'altra radiografia al torace. Il male purtroppo procede inesorabile, anche il polmone destro appare invaso per buona parte dalle cellule maligne. Si rende ora definitivamente conto del suo reale stato di salute. Nessuno in fondo gli ha ancora detto apertamente la gravità drammatica di questa malattia. perché tutti cercano di nascondere, insomma, umanamente comprensibile, di dissimulare le vere condizioni che ormai sono senza speranza. Probabilmente perché tutti, ci viene detto, pregano e intercedono affinché il Signore intervenga e non porti via Nicola. Era molto amato questo ragazzo, ma lui sa, Nicola sa, cosa vuol dire fare la volontà del Signore. Lo ha sempre saputo e lo si deduce anche da un colloquio che con il fratello Tommaso, nel quale fa riferimento alla sua non lontana dipartita da questo mondo, esprimendo da parte sua solo la grande preoccupazione per il grande dolore che la mamma ne avrebbe patito. Quindi era preoccupato soprattutto per la mamma, per il dolore che questa mamma avrebbe ovviamente patito per la morte di questo figlio che amava moltissimo. E naturalmente questo valeva anche per il papà. Intanto però, sulla fine del mese di marzo di quell'anno, chiede un colloquio al superiore provinciale perché gli possa parlare apertamente sul suo stato di salute. Messo alle strette, anche quel giorno il superiore non può nascondere nulla. Il male ormai è incurabile, è di una gravità e di una ferocia inaudita. Lo prega però di avere sempre grande speranza e soprattutto fiducia nella bontà e potenza di Dio, che tutto può operare. Anche un grande miracolo, gli dice il superiore, può succedere come quello di cui l'ora ha davvero bisogno. E prende quindi coscienza, cari amici, totalmente, fino in fondo, di questa realtà. Ma non si scoraggia. Dopo un momento di grande turbamento, momento che trascorre dinanzi a Gesù Eucaristia nella chiesa del seminario, riprende ancora con il suo sorriso, intensificando di più le ore di preghiera e iniziando a riservare lunghi spazi alla meditazione. Si vuole preparare per bene. Chiede comunque, prega il Signore con lucida consapevolezza di guarirlo dal male, ma con altrettanta fiducia, cari amici, si abbandona alla sua volontà, desiderando ora il paradiso più che mai. E proprio la maestra spirituale di queste lunghe orazioni è sempre Santa Teresina di Lisieux. Sappiamo che anche Santa Teresina di Lisieux è scomparsa prematuramente, aveva 24 anni, quando morì di tubercolosi. E proprio da essa Nicola attinge la piccola via della santità, fatta di grandi gesta eroiche nella vita di ogni giorno. È proprio la sua piccola via, la piccola via che lei, questa grande santa, ci ha insegnato, diviene il codice di comportamento della vita del venerabile Nicola D'Onofrio. Lui, in una lettera alla mamma, preoccupata forse di chissà quali penitenze imponeva la vita religiosa, in quel momento c'era altro da preoccuparsi, ma lei non sapeva, Nicolino, per tranquillizzarla, circa la normalità, la semplicità degli atti giornalieri, così le scriveva: «Mamma, tutto si fa per il Signore, per suo amore. Non ci sono da fare mica cose straordinarie come penitenze eccezionali, dormire per terra. Santa Teresina del Bambin Gesù, una suora carmelitana francese, scrive: non ha fatto niente di speciale durante la sua vita, non ha fatto niente di particolare, ha fatto solo quello che doveva fare. A 24 anni è morta di tubercolosi ed è diventata santa». Intanto, in occasione dei colloqui con i suoi amici di seminario, non nasconde o dissimula la realtà della morte imminente, ma ne discorre senza fare drammi, anzi, chiede proprio a quelli che sono più vicini a lui di sostenerlo soprattutto con la preghiera. Dice: «Pregate, pregate, pregate, fratelli miei, perché possa guarire, ma aggiunge subito: soprattutto però perché possa fare la volontà del Signore». E ritorna così a sorridere, a parlare degli studi, dei professori, a giocare una partita di pallone che dopo un po' diventa sempre più pesante e faticosa. E coloro che gli stanno vicino hanno la sensazione che già lui viva in un'altra dimensione, nella realtà ultraterrena che molto precocemente lo sta chiamando. E anche qui è una vita di preghiera, di presenza davanti all'Eucaristia, di questa fiamma di carità che gli brucia veramente il cuore, di questo amore per il Signore che veramente è infinito e grande, e vive così, in unione con Gesù e con Maria. E ricordano soprattutto i suoi confratelli, proprio a questo proposito, il suo discorrere sull'altra vita, quindi sulla vita del paradiso, ne discuteva con calma, con serenità, senza forzature, ma soprattutto con un grande spirito di fede, ci viene detto, che illuminava il suo viso, ormai purtroppo sempre più magro. Ma lui continua a condurre una vita normale, per quanto gli è possibile, partecipando a quella che è la vita del seminario camilliano, senza il minimo rimpianto, anzi preparandosi con ancora maggior zelo alla vita, anche se breve, che lo sta ancora aspettando. E chi non demorde sono proprio i superiori, che con la segreta speranza di ottenere un grande miracolo, cosa fanno? Lo mandano pellegrino a Lourdes e poi a Lisieux. E lui accetta, ma accetta, cari amici, più per obbedienza che per convinzione. Soprattutto lo fa con l'intento di chiedere aiuto alla Vergine Immacolata e alla sua grande piccola Santa Teresa, perché possa compiere fino in fondo la volontà di Dio, serenamente unito alla croce del suo Gesù. E proprio da Lisieux, il 16 maggio, 28 giorni prima di morire, nell'ultima lettera lui scrive ai genitori. È vero che non sto poi tanto male, questo era anche un po' per rassicurarli, ma mi piacerebbe stare bene bene. D'altronde però, la volontà di Dio nessuno la conosce e noi dobbiamo essere sempre pronti a coglierla, anche se è una cosa difficile e pesante. Io, scrive Nicola, sono molto contento di poter soffrire un pochino adesso che sono giovane, perché sono gli anni più belli per offrire qualcosa al Signore. Genitori carissimi, pregate anche voi affinché il Signore mi faccia rimettere in forze, così potrò diventare sacerdote e lavorare ancora molto per le anime. Se il buon Dio però volesse qualcosa di differente dai nostri desideri, sia benedetto il Signore. Lui sa quello che fa e quello che va meglio per noi. È inutile conclude, noi non possiamo sapere queste cose, Dio solamente le sa. La malattia, cari amici, avanza sempre di più e non ha pietà. È ormai sfiancato nel corpo, magrissimo, non riesce quasi più a deglutire. Inoltre, questo tumore sta lentamente devastando anche i polmoni, procurandogli frequenti crisi di asfissia. Lui non vuole analgesici e, malgrado il medico gli imponga di prendere qualcosa per il dolore, egli con il suo dolce sorriso si sottrae alla prescrizione per conservarsi il più lucido possibile all'incontro con il suo Signore. E arriviamo così al 10 maggio. Mancano poche settimane alla sua nascita al cielo. Lo vediamo così, malato tra i malati, nelle immagini che lo ritraggono a Lourdes, pellegrino, con l'immancabile dolce sorriso sulle labbra e sul volto ormai scavato dalla sofferenza, ma proteso ancora una volta, nonostante tutto, ad aiutare l'umanità sofferente, i malati che erano lì a Lourdes, che lo circondano, a infondere coraggio, a condividere intimamente il dolore di ogni fratello che è lì presente. Le forze lo stanno abbandonando e in quei giorni, per la prima volta, accetta l'uso della carrozzina che i suoi confratelli fanno a gara per spingere. E il ritorno dal pellegrinaggio lo vede anche deciso a preparare la sua famiglia a quella che è la sua imminente dipartita. Invia allora una lettera, una delle tante alla mamma, informandola del viaggio e rassicurandola di aver pregato Dio per la sua guarigione, ma di essere pronta anche lei a fare la volontà del Signore. E nella festa del Corpus Domini, è il 28 maggio, questa è una grande sorpresa per lui, con dispensa super triennum, il Papa, San Paolo VI, gli concede di emettere voti perpetui nella chiesa del seminario camilliano a Roma, dove si dona a Dio in eterno. Questo è per il nostro venerabile una gioia che non ha limiti, è una gioia immensa, una sorpresa grande, e possiamo dire, cari amici, che è l'ultimo e grande atto d'amore di una vita breve, ma intensamente vissuta pregando e amando. E arriviamo alla mattina del 5 giugno. Festa del Sacro Cuore di Gesù. In piena coscienza accetta di ricevere l'unzione degli infermi che gli propone il superiore provinciale. Sono momenti di grande commozione per i tanti confratelli presenti al termine della Santa Messa. La Santa Messa naturalmente lui non si poteva muovere, quindi era celebrata nella camera che lo ospitava da qualche mese, a piano terra per facilitargli gli spostamenti che avvenivano ormai solo con la carrozzina. E anche qui riceveva le visite della mamma e anche dei tanti amici. E proprio gli ultimi giorni della sua vita terrena sono una terribile e drammatica sofferenza, ma anche, cari amici, l'offerta, ecco qui, di un amore infinito che lui ha ancora per Gesù, che lui sente per Gesù, a lui dona ogni istante del suo vivere. Il tumore avanza, invadendo ancora di più i polmoni, e questo gli genera atroci dolori e anche momenti di grande soffocamento sempre più lunghi. Possiamo dire che vive eroicamente questa sofferenza, unito alla croce di Cristo, e qui invoca sempre più spesso l'aiuto della Vergine Maria e dei suoi santi protettori, Santa Teresina e San Camillo. Ma nonostante il dolore, nonostante questa atroce sofferenza, resta sempre sereno e questo sconcerta tutti, non cede mai alla disperazione. Anzi, attento a non creare disturbo a chi lo assiste e si sforza di nascondere per quanto possibile l'inevitabile maschera della sofferenza, soprattutto per evitare dolore alla mamma che adesso, in quegli ultimi giorni, è lì vicino a lui con la camera. E anche per chi lo conosce fin da piccolo, questo straordinario, possiamo dire, eroico affidamento alla volontà di Dio, oltre a creare una forte commozione, suscita in tutti ammirazione e devozione. E arriviamo all'ultimo giorno di vita terrena del nostro venerabile. È il 12 giugno 1964. Questo ragazzo ha 21 anni. Quel giorno è una lunga agonia che inizia alle 16 per terminare la sera alle 21:15, dopo una giornata passata in preghiera con espressioni di una fede meravigliosa e ardente d'amore per Gesù e per la Madonna, invocando l'aiuto dei suoi sei santi prediletti, San Camillo e Santa Teresina. Con il conforto della preghiera, una preghiera vera, sincera, di tutti i confratelli e amici che gli sono intorno, il nostro Nicola rende l'anima al suo Signore. E ancora oggi il suo superiore ricorda gli ultimi istanti e dice: intonavo le preghiere alle quali tutti i giovani confratelli, raccolti attorno a lui nella sua cameretta, rispondevano con animo pieno di fede. Egli dice: ogni tanto ci invitava dicendo: ancora, ancora, più forte la preghiera, ed ogni tanto mescolava alle nostre preghiere qualche sua invocazione particolare che rivelava la sua fede viva nella presenza di qualche cosa ultrasensibile che lui sentiva vicino e che noi non vedevamo, ma che tutti abbiamo percepito. E proprio le porte del cielo si aprono per lui mentre ripete continuamente l'atto di offerta della sua vita e delle sue sofferenze, abbracciato e sorretto dai due confratelli più intimi, rifiutando fino all'ultimo, dicevamo, gli analgesici, anzi incitando i presenti a pregare con lui e per lui. E qui un confratello legato al nostro Nicola da un'amicizia profonda scrive nei giorni successivi alla sua morte, scrive questo confratello: ora qua giù fra noi non è rimasto che uno stelo reciso, il suo stelo, il fiore lassù, immerso nel cuore di Dio. È per questo che pensando o parlando di Nicolino mi viene di guardare in alto, trasognato, inchinato, il mio eroe. Avevo intravisto, sognato l'ideale della santità, dice questo confratello, mai l'avevo raggiunto. Poiché per toccare una cosa bisogna esservi vicino e perché l'ammirazione sia senza ombra, bisogna poter imitare l'eroe che l'ispira. Ho toccato il mio eroe e poi parve sfuggirmi, infatti l'aveva perso. Ma conclude, ma come Teresina con Celina, come dice Santa Teresina con la sorella Celina, io credo, dice questo confratello, che Nicola camminerà sempre accanto a chi ha saputo scoprirlo. E proprio pensate, dall'8 ottobre del 1979 il nostro venerabile riposa accanto alla cripta del santuario di San Camillo dell'Ellis a Bucchianico, in Abruzzo, ricongiunto come lui desiderava e voleva alla famiglia religiosa a cui con onore, con orgoglio, santo orgoglio apparteneva. Questa famiglia religiosa che lo ha amato a tal punto che oggi, pensate, lo studentato camilliano di Roma è intitolato proprio al venerabile Nicola D'Onofrio. Veramente l'esempio santo di questo chierico camilliano ha toccato veramente il cuore di tantissime persone. E proprio il coinvolgimento, cari amici, di quanti lo hanno conosciuto da vicino, solo hanno avuto modo di accostarlo nella fase, possiamo dire, terminale della sua vita, fase terminale affrontata con, abbiamo visto, con una serenità, col sorriso della grazia sulle labbra, stanno a testimoniare che Nicola ha vissuto veramente una fede profonda e un'adorazione vera, senza limiti. E questo lo testimoniano anche le pagine dei suoi scritti che ci rivelano questo cammino iniziato fin dai primissimi momenti della sua vita, proprio in questo seminario camilliano. I giorni belli dell'inizio, la sua gioia che abbiamo visto durante questa trasmissione quando lui è entrato all'interno del seminario. E la fase terminale, proprio la fase finale della sua vita e la morte, sono solo, possiamo dire, il momento rivelatore della sua grande dimensione spirituale. E la Chiesa l'ha riconosciuta. Per questo il 16 giugno del 2000, sappiamo il 2000 è stato l'anno santo, il cardinale Ruini, vicario generale di Roma, ha dato inizio alla causa di canonizzazione e beatificazione. È stato un giorno grande quello, perché quel 16 giugno, oltre ai parenti, quindi c'era il fratello Tommaso con la moglie, le figlie, erano presenti anche il superiore generale dei Camigliani, padre Brusco, che fortemente aveva voluto questo cammino, insieme a padre Renato Salvatore, superiore della provincia romana Camigliana. Padre Romano Salvatore è stato un grande promotore della diffusione, di questa vita bellissima, del venerabile Nicola D'Onofrio, facendolo conoscere a tantissimi. presenti anche quel giorno i tanti confratelli che hanno condiviso con lui tanti anni di gli anni di seminario. E pensate, insieme a questi non sono mancati centinaia e centinaia di suoi compaesani di Villamagna, ma anche di Bucchianico, a testimoniare che la memoria del sacrificio della sua giovane età, questo stelo che è stato reciso, ma uno stelo e un fiore pieno d'amore, vivo e palpitante di carità e d'amore, aveva coinvolto tantissima gente, la sua gente. Non potevano mancare quel giorno anche le suore, le figlie di San Camillo, con molti allievi, rappresentanze anche delle ministre degli infermi, di altre congregazioni religiose legate al carisma di San Camillo. Questo ci fa capire, sembra banale, ma è poco conosciuto. Speriamo che insomma da questa sera lo si preghi anche di più, perché tante grazie può dispensare questo santo, anche se ancora venerabile per noi. Ha colpito veramente nel cuore tantissime persone, come possiamo vedere. È stato un esempio unico. E io concludo questa trasmissione, cari amici, proprio con uno scritto di Nicola D'Onofrio. Lui ci dice così, scrive: ci sono momenti duri, tempi di croce, ma niente, niente può distruggere la gioia soprannaturale che si adatta e si trasforma e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato al di là di tutto. È una sicurezza interiore, scrive Nicola, una serenità piena di speranza che offre una soddisfazione spirituale incomprensibile per i criteri mondani. Infatti i criteri mondani non capiscono questa grande cosa. E allora come vogliamo chiudere questa trasmissione? Possiamo dire, cari amici, che ancora oggi questo grande testimone della fede può dire ai giovani: giovani, se cercate il grande amore della vita, fidatevi di Dio e vi mostrerà l'amore più grande, l'amore vero, l'amore fedele che non abbandona mai. E proprio questo messaggio, io dico, è un invito anche per noi, perché germogli in noi sempre più la speranza di una fede coraggiosa che con gioia grande testimonia agli altri il nostro essere del Signore. Bene, cari amici, abbiamo concluso la vita di questa meravigliosa figura che è il venerabile Nicola D'Onofrio, questo chierico camigliano, attualissimo dobbiamo dire. Ecco, io vi suggerisco un libro anche per, diciamo, approfondire maggiormente questa figura, perché merita davvero, e ci sono molti aspetti che naturalmente per questioni di tempo non potevamo esporre, ma che voi potete riprendere. E questo libro è scritto da Mario Spinelli e il titolo è Molto più di un sorriso. È delle edizioni Marcianum, è attuale di quest'anno e potete trovarlo naturalmente in tutte le librerie, quindi potete, nelle librerie cattoliche e non cattoliche, insomma, quindi potete tranquillamente verificarlo. Però vi do il numero anche del santuario di San Camillo dell'Ellis a Bucchianico, dove riposano anche le spoglie del corpo del nostro venerabile, anzi, sembra che stiano verificando un miracolo che egli ha fatto, se non vado errando, nel 2003 a una ragazza di 18 anni del Cile, perché aveva una paralisi cerebrale, però adesso non diciamo nulla, lo stanno verificando, quindi non è escluso che ci siano sviluppi, ecco, più avanti. Vi do, ecco, il telefono del santuario di Bucchianico, dove potete chiedere di Padre Germano. Padre Germano è il rettore del santuario ed è ben volentieri a disposizione per inviare o immaginette oppure anche delle biografie del nostro venerabile o preghiere o quant'altro. Il numero di telefono è 0871, questo è il prefisso, 381121. Allora, il numero del telefono del santuario di San Camillo dell'Elis a Bucchianico, potete chiedere di Padre Germano, il numero è 0871 381121. Bene, allora abbiamo ancora qualche minuto, se desiderate possiamo sentirci se c'è qualche telefonata. Il numero di telefono di Radio Maria è 031 610 610. Grazie, a tra poco. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Giovanna da Torino. Oh, benvenuta Giovanna, e auguri di buona Pasqua anche. Anche a voi. Volevo fare un commento sulla vita dei santi. A me colpisce sempre l'umiltà e la fiducia che donano con il cuore. E soprattutto no, si nota, si fanno notare per questo. E comunque, volevo dire, ognuno di noi può diventare santo, anche senza fare cose straordinarie, ma semplicemente compiere i propri doveri quotidiani in modo straordinario, perché Dio vede e agisce nel segreto del cuore, no? E quindi solo ognuno di noi con la propria fede lo può sentire dentro e di conseguenza poterlo trasmettere agli altri, anche nonostante che abbia dei problemi, che abbia dolore o problemi vari. È Certo. ancora più importante questo, perché sia nella preghiera che nel dolore, sono grandi doni che offriamo a Dio e al nostro prossimo. Volevo dire questo. Sì, Giovanni, è vero, perché la preghiera in questo caso, il dolore diventa preghiera preziosa, veramente dagli occhi di Dio. E questo è l'esempio che ci ha dato proprio questo giovane venerabile questa sera. In effetti è vero anche, noi facendo le cose ordinarie in modo straordinario, è quello che ci insegna Santa Teresina di Gesù con la piccola via, no? Cioè fare le cose, anche le cose più semplici, ma farle con amore, per amore di Gesù. Lei diceva anche chiudere una porta per amore di Gesù è una preghiera grande, che ci fa sempre più camminare in questa strada che dobbiamo percorrere nella vita per arrivare al Signore. Benissimo, grazie Giovanna. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, buona Pasqua, sono Giancarlo d'Alessandria. Grazie Giancarlo. Bellissima, complimenti per la bellissima trasmissione. Io l'ho seguito un po' le sere per lo San Camillo dei Lebbi, che hanno fatto vedere delle sante messe, l'ho seguito e hanno parlato di Nicola Onofrio, ho visto tutto il suo altare che hanno fatto, è bellissimo, una bellissima cosa che ho visto. Complimenti anche per lei per la trasmissione che ha fatto stasera, che mi è piaciuta tantissimo. Benissimo Giancarlo, d'accordo, la ringrazio. Grazie e buona Pasqua anche a lei. Ecco, non so se abbiamo. Benissimo, sì, perché siamo all'orario finale. Io allora ricordo esclusivamente ancora il libro che vi dicevo prima sul Venerabile. Allora, il libro sulla biografia del Venerabile Nicola D'Onofrio. È scritto da Mario Spinelli, si intitola Molto più di un sorriso ed è le edizioni Marcianum di quest'anno, che trovate ovunque. Invece il numero del santuario di San Camillo dell'Ellis è a Bocchianico, quindi potete chiedere qui a Padre Germano, dicevo, le varie informazioni o quant'altro, è 0871 381121. Bene, cari amici, io vi ringrazio. Abbraccio tutti, vi auguro un buon mese di aprile, ancora tanti auguri di una santa Pasqua, a Dio piacendo ci sentiremo nel mese della nostra meravigliosa Madre del Cielo, della Madonna, e il 3 maggio, mi sembra che sia il primo lunedì del mese, per vivere insieme la vita di un altro grande santo. Buon mese di aprile a tutti, a presto. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.